rispetto te lo devi guadagnare, dare rispetto per avere rispetto dalle strade, il rispetto te lo devi guadagnare, dare rispetto per averlo rispetto dalle strade. Sono mica un infame, oh. Non sono uno sbirro, quindi cazzo ti preoccupi. Non faccio mica gara tra gli orchi, che cazzo guardi. Non sono mica quello che assale i bambini. Non siamo mica qua per uccidere tutti questi innocenti. Siamo qua per un mondo migliore. Siamo la corona e il fiore di un angelo portatore di luce. Siamo qua con la nostra croce a portare parole invece. Siamo strozzati dalle armi dei nemici al collo, bastardi. Quando ci guardi tipo Ero, chiamate pure Sgarbi. In fondo i miei dardi ci sono parole profonde, tipo crocefissione, espulsione, fucilazione, lirica uccisione di tutti sti bastardi di... Quindi cosa ti agiti, non aver paura? One, two, three, nessuna sfumatura, nessuna distrazione, logica e bravura nella metrica, sono un campione. Più di Gandhi, faccio porto pace tra le mie genti, rimango qui tra mezzo tutti questi assistenti che mi guardano nel cervello e dicono presenza di demenza, ridicolo. Non sono mica qui a spiegare come si fa rap, le strade lo conoscono forse meglio di me, ma meglio di me ci metterò la faccia, ci metterò sta critica cruca, che ti spiaccia o non ti piaccia, la mia roba rimane la preferita pure dello spaccio, che ci spaccia sopra a tutti sti bamboccini, qualche... Gangetta e cocaina carini. Boh, toc toc, chi bus alla porta, poi boh. Sono Mr. Simpatia, ritornato per farvi il culo a strisce. Rimango in mezzo a una via, non ti di periferia. Rimango legato come la gamba di un santo al tavolo. Rimango qui lì, scrivo metriche. È ridicolo quello che scrivi te, non il mio poco flow. Ricordati che stai parlando con un boss. Il boss spiega e tu prendi note, appunti sulle mie strofe. Rimango qua, rimesso in una lirica, cambiamento drastico. È ridicola questa situazione, la metrica. E non è un'opinione, questa rimane un'esercitazione. Come un aereo che passa sopra ste genti e manda a vivere e distrugge Vietcong, oppure il nazista tutti sti perdenti e fa morti qua e là.